ci conoscevamo da tanto tempo, perché io sono romagnolo di origine, insomma, quindi ho lavorato diversi anni a Ravenna e ci conoscevamo dalla fine degli anni Ottanta, quando lui, prima ancora che diventasse un artista, un attore affermato, Ivano era un geometra, lavorava all'ufficio urbanistico del comune di Ravenna, poi decise a un certo punto di licenziarsi per intraprendere la carriera dell'attore. Siccome avevamo in comune, io all'epoca lavoravo all'Unità a Ravenna, alla redazione di Ravenna, e avevamo in comune, diciamo, la passione politica, eravamo tutti e due iscritti al Partito Comunista, avevamo la passione comune del tifoso dell'Inter, perché erano tutti e due tifosi dell'Inter, e in particolare Milano, perché essere stato è sempre stato una persona molto impegnata politicamente, era soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i temi dell'antifascismo, della difesa della Costituzione, e quindi durante questo percorso ci siamo incrociati in più di un'occasione, abbiamo fatto cose assieme, insomma, alcune iniziative proprio anche su questo tema della Costituzione, promosse dall'ANPI, per cui mi ricordo una da Alfonsini, un'altra a Ravenna, insomma, così ci siamo ritrovati in diverse occasioni. Poi l'ho intervistato diverse volte per il giornale. Era nata un'amicizia, ecco, un rapporto di collaborazione e di amicizia, poi seguivo la sua attività teatrale, le sue performance, insomma, dal monologo su Dov'è la Romagna, che era e rimarrà, credo, una delle cose più belle, diciamo, che ha fatto da questo punto di vista, alla riscoperta dei testi dialettali di Raffaello Baldini, insomma, che metteva in scena. E poi anche naturalmente seguivo nei suoi film, insomma, nella sua attività teatrale. A me ha particolarmente colpito il fatto che Marescotti era capace di passare dal locale, anche dal dialetto, a lavorare con artisti internazionali. Una grande versatilità. Una grande versatilità. Era un bravissimo attore, questo lo abbiamo visto, lo sappiamo tutti, anche nelle parti, diciamo, che ha interpretato nei personaggi, nella parte cinematografica, dava, insomma, il meglio di sé. Io adesso me ne ricordo alcune, no? Il leghista nel film di Checco Zalone, il politico corrotto nel film di Lucchetti, quello con Benigni, insomma, questi personaggi, e anche con Scott e con altri, insomma, dava il meglio. Ma lui aveva questo profondissimo legame con la sua terra, con le sue origini, con la sua Romagna, e quindi andava a cercare, diciamo, l'incontro con i testi di Raffaello Baldini, che sono uno che ha scritto tantissimo e soprattutto in dialetto, costruiva questo legame. Quindi faceva questi spettacoli teatrali in dialetto, molto in dialetto, che potrebbero sembrare una cosa minore, ma in realtà invece erano la stessa capacità artistica legata a questo profondo rapporto che lui aveva con la sua terra. Insomma, questo era un po' la cosa, e quindi mi divertiva molto. Sono andato anche alcune volte, perché poi lui aveva fatto questa accademia teatrale, questa scuola teatrale, per cui anche qui a Bologna, al DAMS, insomma, mi è capitato alcune volte di andare a seguire cose che faceva con i suoi allievi, insomma, era sempre emozionante, è una cosa molto divertente seguirla. Poi devo dire, mi ha anche fatto un paio di favori grandi, perché è venuto a presentare due dei miei libri, il primo nel lontano 2000-2001 a Ravenna, mi ricordo, al Teatro Alighieri, che avevo scritto questo libro sulle lettere dei prigionieri italiani nella seconda guerra, nei campi di prigionia e dal fronte, venne a leggere un po' di queste lettere, insomma, così. E poi 4 anni fa, nel 2019, che avevo scritto questo libro che si chiama La ragazza ribelle, su questa, una storia di una sopravvissuta alla fucilazione fascista, Annunziata Verità, una faentina, e venne a Camalanca, nel Brisighellese, dove c'è questo museo e questa casa che è uno dei luoghi simbolo della resistenza, e venne a leggere alcuni brani di questo libro assieme alla protagonista, che è anche ancora viva, che si chiama Annunziata Verità, 97 anni oggi, ed è ancora viva, sta ancora bene. Fu una giornata splendida, magnifica, perché c'era un sacco di gente, la protagonista che si era emozionata, insomma, per cui gli sono molto grato e gli ho voluto molto bene anche per questo, e mi dispiace tantissimo, veramente. Tu prima dicevi che vi accomunava anche la militanza politica. Sì. Ivano Marescotti ha avuto però anche il coraggio di fare scelte, tra virgolette, eretiche, diciamo così. Sì, a un certo punto ha sostenuto il Movimento 5 Stelle, ma diciamo lui è una persona che è sempre stata molto legata alle radici proprio della sinistra storica, diciamo, no? Questa è la sinistra antifascista, la Costituzione che considerava più bella del mondo, ed era soprattutto uno che è sempre stato dalla parte vicino non solo ai più deboli, ai poveri, ma proprio a questo senso del pubblico, no? Dello Stato, dei servizi, di uno Stato che sia vicino, di una sinistra, diciamo, che si avvicina ai più deboli, ma allo stesso tempo di una sinistra che difende la scuola pubblica, la sanità pubblica, insomma, che fa la sinistra. Lui a un certo punto era molto deluso di come la sinistra si stava comportando a questo paese e sostenne, siamo negli anni 2007-2008, dopo Grillo con nel canotto in Piazza Maggiore, l'esplosione, no, del Movimento 5 Stelle. Quindi lui sostenne i 5 Stelle ed era, abbiamo anche avuto modo di parlarne assieme, perché questa cosa la fece in un modo aperto, mettendoci la faccia come lui faceva sempre, ed è stato anche molto criticato. Lui mi disse, mi fece capire che la sua era un po' una scelta di rottura, perché sperava che questa cosa potesse far rompere un po' il meccanismo di questa palude politica che si era creata, e sperava che la sinistra tornasse a fare la sinistra, perché lui si sentiva, era molto critico nei confronti del PD, della politica di una sinistra che secondo lui non faceva più la sinistra, tant'è che poi, diciamo, non è rimasto nel movimento, legato al Movimento 5 Stelle. Poi dopo, quando i 5 Stelle fecero il governo con la Lega, eccetera, insomma, disse che si era pentito di questa roba, ma non del significato di rottura che voleva significare quella scelta.